poi ritorna qua. Cazzo, QSL, Ale, grazie. Sì, ma non è di quella serie lì che hai pensato tu. Questo processore non è A per la M. Beh, andiamo, vado a fare una prova con Gianni e poi ritorniamo. QSY greca già, 205. E casotto, da. Si spaventi. Marco Scorpio, non lo sei. Marco, sono 20. Buonasera. Buonasera anche a lei, dottore. Ciao Antone, non so chi sia rimasto, io prima c'era una ruota, mi sono clamorosamente addormentato sul divano, mi stanno venendo questi abbiocchi diurni allucinanti e poi la notte non dormo, quindi saluto tutti sul canale, non so chi ci sia, fai l'appello tu, Antonello? Ma questi ci arrivano sempre con gli abbiocchi, anche quando ti ho fatto l'altro giorno me ne hai detto. Ma è una cosa assurda, cara. Fatti controllare questi abbiocchi qua, perché è strano, cazzo, tu, vabbè, tu fai dei valori strani, tipo vampiro, quindi a un certo punto se ti guarda la televisione e ti si dorme, a un certo punto, perché te la notte sveglia, dormi la mattina fino alle 4, poi alle 4 ti svegli, mangi, eccetera, eccetera, poi è logico che ti viene l'abbiocco, cazzo. Ho sentito Nicola che chiamava, ma si è abbassato parecchio rispetto a prima, appena entrato. Nicola? Nulla, sparito. Va bene. Insomma, non vedi nessuno in lobby? No, siamo solo noi due, quanto sembra. Io stavo... ho risvegliato il corso, il CTE, e sto pompando con l'idea per farlo scaldare un pochettino, se no mi si incide a tutto. A un certo punto, da un po' di tempo che non usavo più niente. Poi c'è con il 4000 tuo, ma quello già funziona bene, la verità. L'ho acceso l'altro giorno, l'unica cosa è l'altro 2009, il colore nero e basta. Che devo accenderlo ogni tanto, se no si incendia tutto. Si è sparito, bello, beh, si è sparito. No, no, sono qua, però sto per andare a fare il caffè decaffeinato, capito Antonè? E loro si sono spostati sul 20 a fare una prova in banda laterale. E allora procedo, dai, procedo a fare quello che stavo facendo in cucina, Antonè, dai. E sentiamo, rimango in quell'X, ok? Io, domani mattina devo andare a fare alle 11:30, invece io il corso. Mi ha chiesto un esordio, dice vuoi fare il coso? Dice vabbè, facciamolo, gli ho detto. E dice allora vai, c'è il Zeddu e lo fa, gli ha detto. Vabbè, gli ho detto, qual è il problema? Intanto mi serve, se mi cavo a lavorare, a me quello serve. Senza quello non ti possono assumere. Il discorso è quello. Vabbè, se è necessario Antonè si fa, giustamente. Ma non faccio piegato per scuro, anche se è negativo, me lo metto, capito? Nel caso dovessero chiamarmi all'ufficio di collocamento per dire guarda che io l'ho già fatto, l'ho fatto 15 giorni fa e risulta negativo, quindi sono tranquillo, posso entrare tranquillamente a lavorare. Perché adesso purtroppo se non fai quell'esame, un cazzo entri, da una parte all'altra, tantomeno anche in ospedale a fare pulizie. C'è ricatto, capito? Quindi in pratica non lo fa, viene automaticamente secondo la testa loro licenziato. No, non ne sto capendo Antonio, non sto seguendo. Tampone. Non ho capito, ho sentito la parola licenziato, così è. Cioè se non fai il tampone ti licenziano. Per le attuali leggi non è permessa una cosa del genere. Se non fai tampone in pratica e se risulti negativo non succede nulla, ma se sei positivo sei licenziato. Il discorso è quello adesso, hai capito? È come la vaccinazione, tale uguale, obbligatoria, quindi se sei negativo la vaccinazione mica te la fai, ma cazzo te la fai a fare, scusa. No, vabbè, Antonio, a parte quello che può dire il datore di lavoro, che abusi ne fanno tanti, il tampone è un trattamento sanitario e non può essere obbligatorio, salvo che non approvino la legge, che ancora non è approvata, e si sparano la faccia. Stessa cosa per il vaccino. Ma appunto per così, negli ospedali i medici anche di base, altrettanto, se non si fanno la vaccinazione vengono eliminati completamente, hai capito? Il discorso è quello, quindi se il vaccino ti fa male tu crepi, per dire io sono medico, eccetera eccetera, muoio, allora devi fare un cazzo. Ma se ti vaccini, io poi vaccini a quanto sembra sono tutti e due uguali, sia uno sia quello l'altro che sta facendo con l'americano, sono precisi, non cambia un cazzo. E poi bisogna vedere anche come sono regolati i rapporti lavorativi, non lo so, però non può funzionare un rapporto lavorativo sul ricatto, che non fai una cosa allora ti licenziamo, vabbè. Sono ancora addormito, devo pigliare sto caffè, mi sa che me lo prendo non caffè, con la caffeina, se no non mi sveglio. Buonasera Marco! Ciao Gianni, dopo tanto, non ti sentivo dalla volta del vento brutto, quel vento brutto di due settimane fa. È ben sentito dopo tanto. Eravate sul 20 qua, c'è un problema laterale, beh, come pompa? Oh, va bene, è da un keyboard TS50, è molto bellino quell'apparecchio, si sente bene e tutto, è molto forte di radio, bella, va molto bene anche in banda laterale. E niente, stavo facendo le prove, però c'ho l'alimentatore che non mi va bene, Marco. Ho l'alimentatore che mi sta facendo tru quando poco fa quel rumore, non ce la fa, ed è da 55 ampere addirittura, probabilmente c'è qualcosa di partito, perché a volte lo accendo, si spegne da solo, dopo un po' si spegne, come scalda si spegne, secondo me ci vuole l'alimentatore nuovo. C'hai una specie di vento là sotto, già. Cos'è che stai usando, un PS50? No, non io. Aspetta, vediamo se è rientrato anche Marco. Ce l'aveva Marco. Ma io sento sparare qua. Pochi artificiali ci sono. Boh. Ciao Claudio, ben sentito. Gianni, allora, quel lineare che hai tu deve consumare massimo 30 ampere a strozzo. 30 ampere di massimo. Se l'alimentatore non riesce a supportarti nemmeno 30 ampere, allora sì, vuol dire che non ce la fa, non ce la fa, c'è qualcosa da revisionare. Vai Claudio. No, il mio compagno è servito, hai visto Fujibe, se non l'ho fatto. Io c'ho il 1000, tu c'hai il 503, così è. Io c'ho il 1000. Fatti il conto, cosa deve servire il mio allora? Se non è possibile che un lineare del genere non vada avanti, con 50 ampere. C'è qualcosa l'alimentatore allora già. Ma infatti lo sto dicendo, ha qualcosa l'alimentatore, perché a volte si spegne anche, va in protezione. Cioè per dire, io accendo prima un baracchino, accendo poi l'alimentatore, si spegne, lo devi rispegnere, farlo raffreddare, fa tu quando si sta spegnendo, fa questo rumore, e poi tu lo riaccendi e funziona bene, hai capito? Ti ho capito. Guarda, io c'ho una bestia che costa, è costato 650 euro, e c'ha quanti ampere può servire, non lo so, comunque va molto bene col boxer, capito, sia a 12 che con l'alimentatore su a 24, però è il triplo della potenza che c'hai tu, eppure lo porta bene. Ci abbiamo lo stesso alimentatore, Gianni, te l'ho già detto, io ho 60, 55, 60, lì si chiama, della Proxer, quello con la cilindrica davanti, doppio strumento, i quattro connettori piccolini davanti, due dietro, uguale, ce la fa. Vabbè, gente mala. Vabbè, a tu, allora. Allora, a me, ne ha già più appena finita di travagliare. Ho capisci. Ma non posso immaginare. Adesso ti fa una bella mangiata. Che cappa mia, cozzinente Ciara. Sono un sacco molto. Oggi mi hanno scelbidato. Davvero. Ma tu solo così, eh? Allora, caga. Pensiamo che avesse, diciamo, delle dita che c'ha 2-3 metri. E scappa. E ho solo consegno. Ciao Cra, buonasera. Cazzo, ma oggi cazzo non mi intendo. Sono da stamattina lavorando, pensa. Dalle 7 scaricando bombole andando da una parte all'altra. Cioè, a primo viaggio un cazzo ho caricato 82 bombole. A primo, proprio a primo dentro il deposito. Poi al secondo viaggio torna a caricare bombole. A voi sì, consegna, bomba, oh cazzo, un grebato. Perché non le scaricano loro le bombole che ti portano? Ma poi arriva a cintà. Da, deve caricare già un camion, se la mette deve a cintà. Sentite. Fatto voi. Ma la foto vista l'hai già? Cosa? La foto vista l'hai dell'amplificatore mio? No, adesso con la collega. L'ho visto il fusibile, Claudio, però era un po' tardi e non ho risposto. Visto comunque. Immaginate tu, guarda il fusibile che è il mio. Vabbè, il mio è un 800 watt, te l'ho detto. Vedi un po', Gianni, e ce la fa. Boh. Sì, sì, se va in protezione all'alimentatore vuol dire che c'è, dice che lo fa a caldo così e poi lo spegne, lo riaccende dopo un po' e funziona. Qualcosa che scaldando va, boh, va in perdita. Via. Comunque non l'ho trovato su internet, di quel colore, con quel nome, Claudio, non sono riuscito a trovare nemmeno un'immagine. Per sapere, per avere dati tecnici più dettagliati, dai, per curiosità era. Non lo trovi quello, ti ho detto, quello non lo trovi, quello è una cosa che hanno dato a me particolarmente, non l'ha data neanche a me, l'ha data a un'altra persona e lui me l'ha fatta avere a me. No, non ce n'è più di questi, queste sono le bestie, le vedo venere, capito, della MR Italy, le vedo venere, il Winner LA1000, capito, le vedo venere, sono, è una bestia Marco, te l'ho già dimostrato ieri, una bestia, e ce l'ho anche adesso attaccato, però è alla minima potenza, guarda la radio, a vedere. Sì, vabbè, modulazione avevamo visto che non saturava niente, sicuramente è stato ottimizzato dentro, è stato molto ottimizzato in modo da rendere bene senza saturare. Chi altro c'era? Ma è rientrato Scorpion che era in trasferta? Scorpion ci sei? No, dopo le prove non è rientrato, erano sul 20 e già. Oh Claudio, io mi sono messo qui a una certa ora, no? C'era Gianfranco e Giulio, ho sentito due passaggi, mi sono sdraiato sul divano, no? Penso il volume basso, ascoltato due passaggi, boh, grumido. Sono svegliato poco fa, ho sentito Pomponi e boh. Cioè loro si erano spostati al 20 a fare una prova, ma laterale, poi c'era Pomponio, a te le immagineggi, mi vengono questi abbiocchi di giorno e di notte insonnia feroce. Boh. Perché non dormi di notte e ti viene insonnia di giorno, normale. Adesso guarda, io sono attaccato, com'è la mia radio? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Satura. Un pochino, va. Aspetta che ti attenuo Gianni, riprova, ti attenuo tutto, vai. Guarda, va bene. Sono al minimo. Al basso? Parecchio, sono al minimo per la potenza. Come fa a essere satura? No, oddio già, diciamo che non è proprio cristallina, un po' incide, un pochino incide, un po' si sente, mica non è pura la modulazione, al mio apparecchio, poi te l'ho detto, io metto 10 baracchini e ti sento in 10 modi differenti, vediamo da Claudio cosa risulta. Blocco per me, ce la risentiamo dopo, ok? Ciao Antonio, non ti avevo salutato, dai, a dopo. Adesso mi ha passato un altro po'. devi avere una media. Io sono in sesta marcia, sai quanti watt sta dando questo amplificatore in sesta marcia? Ah? Sta dando la bellezza di, allora, sul parlato siamo intorno ai 600, quasi 750. Senti qualche problema? Lo Smith che si è incollato. Lo Smith che ti si è incollato, quello non ci sono dubbi, perché si può incollare lo Smith, anche in lontananza, capito? Capito Gianni? Questo è il padre di quello che c'è tu, eh? E sono in sesta marcia, stai attento che però questo c'ha quattro finali, a MOSFET, autocontrollati, autogestiti, con l'oscillatore di banda. Quello non lo so, capito? Però io la potenza qua ce l'ho a 5 watt e sto andando con quasi 700 watt. Guarda adesso com'è la radio, te l'ho abbassato tutto. Io sento sempre un leggero soffio di saturazione, chiamala come vuoi, capito? Un leggero soffio di saturazione, non so se la radio, se non lo so. Antonio, mantenete lo Smith, prova a mettere in sesta marcia, che facciamo una prova con Marco a vedere chi passa, che tu sei molto molto più vicino, vediamo. No, non è più vicino, linea d'aria no, secondo me potreste essere equidistanti. Guarda, 1, 2, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Vabbè, passa Claudio, ma più watt, anche più watt, capito? Gianni, poi ti era arrivato il famoso connettore verde? Sì, sì, Marco, dopo le feste. Vedi, adesso non lo sta più facendo quel rumore tiki tiki tiki tiki, forse era troppo bassa la potenza del gas, era troppo bassa, è per quello che faceva quel rumore tiki tiki tiki tiki, forse era troppo bassa l'entrata che gli davo. Adesso come sta andando? Io Gianni ti ripeto, ti sento sempre saturo, una volta solo ti ho sentito, il giorno l'abbiamo regolata, non so se è a 3 watt, 4 watt, però quel lineare mi sembra strano, se è un RM Italy c'è lo stadio finale a MOSFET, non ho capito perché sta comportando così. Questo non lo fa, questo in sesta marcia, in prima marcia, con 5 watt non lo fa, con tutti i baracchini non lo fa. Pazienza, quello di guardi, forse è l'apparecchio che non si abbiccia, provo con un altro apparecchio e vediamo un pochettino. Gianni, sì, ja. Ascolta, ma tu l'avevi provato in barra mobile e c'era una certa differenza, mi pare che in barra mobile non saturava, è corretto? Ehi, avrà con un altro apparecchio che si può regolare molto di più di questo qui scende massimo a 5 watt, capito? E con 5 watt non ce la fa, posso. Adesso sto scendo con 300 watt, guarda come sta andando. Sì, non è pulita la modulazione, capibilissima, quello che vuoi, però non è pulita già. Guarda che allora i più esperti, quelli apparecchi li pilotano con 2 watt addirittura, lo sai, 2 watt. Al limite 5 modulati, al limite, però portante muta 2 watt, anche 1 watt e mezzo. Ci vuole una certa maestria, poi già quando trovi l'impostazione giusta vedrai che esce bene. E adesso guarda. Ma Gianni è convinto che dandogli 5 watt o 8 watt sia più forte l'amplificatore, invece ti porta via la radio, capito? Non lo so perché fa così, io ti ripeto, questo adesso l'ho messo, tu figurati, quanti watt ti dai in sesta marcia? 300? Gianni, quanti watt ti dai in sesta marcia? 300? Aspetta che forse ci ha allontanato, cosa volevo dire? Quello, oddio, quello non so se sia adatto di fabbrica per 300, però non spiega se in AM o se in SSB. Guarda, io ho visto la prova di Francesco Peretti, l'ha alimentato con 2 alimentatori switching da 50 A per sicurezza, l'ha ottimizzato internamente, ottimizzato in modo da non saturare, eccetera, e quindi dava in AM 250 watt effettivi, non picco, effettivi. 250 con 5 watt e mezzo di ingresso di pilotaggio. Ecco, è questo sono 600 effettivi in AM. Quasi 700, 670, 680 modulati, però di portante sono 600. E in banda laterale sono dolori forti, però c'ha 4 finali, non 2, 4, capito? Ma non costa 170 euro, 200 euro, ne costa 650. Perciò addirittura Gianfranco mi ha detto che l'altro modello uguale a questo costa 2400 euro. Vabbè, ma quello è anche, hai detto che HF serve anche per altri scopi, no? Per altre bande, compresi gli 11. No, ma finali, fammi capire Claudio, tu che finali c'hai nel tuo? Saranno gli MRF, no, secondo me, quelli a croce, quindi ne ha 4, così è. Sì, sì, ne ha 4 a croce, saranno quelli, non l'ho aperto io, no. Il manuale adesso ce l'ho sulla scatola, ce l'ho. Non so se dentro l'armadio, no, non c'è dentro l'armadio, è mansarda la scatola, sotto te l'avrei detto. Sì, 4 a croce ne ha. Guarda, questo è uguale a quello che c'ha Massimiliano, né più né meno, quindi quando senti a lui, chiedi a lui e ti dà tutte le informazioni che vuoi, perché lui è molto pratico. Ehi, un attimino, aspetta, fate un po' di bianco. Gianni, sei rientrato? Doppio. Ehi, no, ti voglio spiegare, Claudio, che comunque quello di Gianni ha sempre mostrato che sono gli MRF. Sono, dovrebbero essere gli MS1307, sono gli stessi del 747, però ha 9 MOSFET e presumo che 8 siano di potenza e uno sia il prefinale, su posizione mia. Sono 9 MOSFET identici, capito? Uno appunto potrebbe essere il pilota, come si chiama, il prefinale, pilota. Vediamo se è rientrato Gianni. Adesso sono con 2 watt, guarda a vedere come sta andando. Sembra che abbia già migliorato, aspetta che ti attenuo, vai. No, ma guarda, 1, 2, 3, che poi la limitatore, sempre vederlo, perché non va bene, non mi piace questa limitatore, lo cambierò sicuramente, diciamo che 21, 22 ampere me li sta assorbendo. Allora, per me ha migliorato tantissimo già, migliorato tantissimo, la modulazione è bella espansa, forte e non c'è quell'effetto, già hai capito, quello di saturazione di prima. Claudio? Sì, sì, ha migliorato tantissimo. Quanti watt ti sta dando per quell'assorbimento lì? Praticamente quella radio, in sesta marcia, quanti watt ti dà con un wattmetro serio? Quanti watt mi dà? Mi dà, sto guardando, 20 adesso, 20, però con 2 watt. Ma in che marcia sei però? In sesta marcia, quanti watt ti dà quel lineare? Te l'ho detto, 20 watt con 2, ma 20 e 20 con 2 watt di entrata. Cioè ti sta dando 20 watt quel lineare o 200 watt? 200, adesso ho sbagliato. 200 watt però con 20 watt, con 2 watt di entrata, bisogna che fa cucciare. Ma vedi c'è qualcosa che non va, non lo so, dov'è l'inghippo, non... Allora, io con 4 watt, 5 modulati, 5 modulati, 4 watt, 5 modulati, in seconda marcia, neanche, forse in prima, P&P, mi dà gli stessi watt che sta dando a te in sesta, capito? È lì che ti sto dicendo, o è l'alimentatore che non ce la fa, non lo so. Non posso dire da 3 ore che l'alimentatore che sta facendo, addirittura mi sento la mia voce che rimbomba nell'alimentatore. Boh, una cosa un po' strana, non mi era mai successo. Ah, boh, non lo so. Ma quello c'ha 2 finali, non 4 come il mio. Ma Claudio, ma c'ha 9 finali. 9 finali, gli stessi del 747, 8 di potenza e presumibilmente uno che è il pilota. Ma quello di Gianni però, non il mio. Eia, quello di Gianni, il 503. Ah, il 503 già lo so che c'ha gli stessi finali del 747. No, il mio, lascialo perdere, il mio c'ha 4 finali che... Te lo può dire Massimiliano come sono fatti e che cosa, perché lui ce l'ha uguale questo amplificatore. Ecco che ha detto io, 650 euro. va bene, va bene. Che segnale c'ho lì da te, Gianni? Ora, ora. Gianni. Stavo mettendo gli occhiali, io dico cazzate, vai. Ehi, poche cazzate ci sono da dirmi. Guarda un po' quant'è il segnale. Ora, ora, ora. Immaginati che ieri a prova di trasmissione con Marco, tutto le fighe in chiuso, da 3 liscio andavo a 8. A 8. Lì com'è il segnale? Vai, più avanti del più 30. Ehi, praticamente ci affondo scala, vai. Va bene, va bene. Sì, Marco, sì. Lo conosco bene quel lineare lì, ma questo che tu volevi andare a vederti le caratteristiche, non ne trovi. Questo me l'hanno fatto avere per vie traverse. Il Winner, l'LA1000, non lo trovi. Ma potremmo dire che è una realizzazione artigianale su base RM Italy? È della RM Italy, lo fa la RM Italy, ma ne ha fatto pochi esemplari. L'LA1000 ne ha fatto pochi perché costano una barca di soldi e molti hanno preferito prendere qualche altro modello, tipo per esempio quello che c'ha Vittorio dell'RM Italy nella furgonetta KF, che costa la metà di questo, capito? Eia, aspetta, comunque, un attimino, lasciate un attimo. Ok, mi sono regolato lo squelch. No, comunque Claudio, se con lui 2 watt, allora prima di tutto adesso sta uscendo pulito rispetto a prima, no? Se con 2 watt mi ne dà 200, non sta lavorando male lineare, sta lavorando bene. Ti ho detto, se vedete il video di quello che l'ha provato, peraltro ottimizzato, con l'alimentazione molto molto superiore a quanto ne servirebbe, me ne dava 5 watt e mezzo in ingresso, 2,50 in AM, ci siamo, massimo. Quando lui ne dà 2 in ingresso e ne dà 200 reali puliti, è di lusso. Certo, se poi dà più watt e magari gli dà 50 watt in più o qualcosa in più, però satura. E come ho sempre detto io a Pomponio, Antonè, pilota il lineare in basso, è inutile averne 100 e uscire male, meglio averne 70 e uscire bene, sempre lì il discorso, riprendi già. E adesso io, per dire, l'ho tutto chiuso, il power del Galaxy, l'ho tutto completamente chiuso, ce l'ho chiuso completamente, e mi dà 200 proprio, la 200 con picchi a 201, là, diciamo, per essere pignoli. Però adesso va bene, dai, adesso è tutto chiuso. Ma non devi chiudere tutti i watt gli devi dare. Poi Marco, quel lineare, cioè l'RM Italy fa dei signori lineari a MOSFET, non devono saturare, hai capito? Non devono saturare, perché se io ti attacco il B300, io ho il B300P, ok, che praticamente è quello che sta usando Gianni, questo della ZG e quello là dell'RM Italy, sono uguali, ok, non satura il mio, non satura, leggermente ma in sesta marcia, ma dalla 1 alla 5 con gli stessi watt di questa radio, con l'Innovit, non satura, sono 4 watt, lui li chiude tutti, non capisco perché li debba chiudere tutti per uscire così bene, perché adesso stai uscendo spettacolare, benissimo, bella la radio, fortissima, pulita, capito? Non capisco questo, perché deve chiudere tutti i watt per uscire così pulito, quando non funziona così con questi tipi di amplificatori. Allora, se era poco fa mi ha detto, cazzo, che tutti li stanno pilotando con 20 watt, con 2 watt, che per uscire bene si devono mettere 2 watt, l'ho messo a 2 watt e adesso non mi va bene, io non comprendo, cioè stavate dicendo che cose si pilotavano con 2 watt, l'ho messo a 2 watt, adesso esce bene, però non va bene lo stesso. Gianni, riascoltati, gira il nastro, nessuno ti ha detto che non stai uscendo bene, ti ho detto che stai uscendo benissimo, non capisco perché per uscire bene devi metterlo a 2 watt o abbassare tutta la potenza, quando l'ingresso di quei lineari lì a MOSFET è almeno di 5-6 watt, ok, io sto andando con 5 watt, o il padre di quello tuo, o il padre e lo zio, tutti e due assieme, perché è più grosso che c'è, ok, E ce l'ho a 5 watt e non satura. Perché il tuo deve saturare a 5 watt? Devi abbassare a 2 watt? Questa è la domanda, amico. Nessuno ti ha detto che stai uscendo male. Stai uscendo meglio a 2 watt che a 5 watt. Interessante che scambi, e pure sto mi interessa. Interessante che vada bene, con 90, con 290 e che vada bene. Vabbè, lo lascio chiuso, quando lo devo usare lo sai se come usarlo. Se no, se io prendo questa marcia, se magari lo metto in quinta marcia, lo posso pilotare anche con più watt. Anche quello è un problema, perché guarda, io sono in quinta marcia adesso, la senti la mia modulazione? Se metti l'occhio sullo smitter te ne accorgi che aumento. Io sono in quinta marcia, guarda la radio se cambia, quinta, ecco qua, lo scatto l'hai sentito, adesso sono in sesta marcia. Ha cambiato qualcosa? Ha cambiato solo magari il livello della potenza, ma la radio non ha cambiato, e così deve essere quello già, ecco quello che ti sto dicendo. Stiamo parlando di RM Italia, non stiamo parlando di ZG. Ecco, vabbè. Adesso cambierà l'alimentatore, vediamo se dipende da questo. Probabilmente non ce la fa l'alimentatore, c'è qualche problema perché si stava, mi è caduto in terra, dico la verità. Facendo un lavoro mi è caduto, adesso che si sia rotto qualcosa, non lo so, fa questo difetto spesso. Poi quando scalda a volte si spegne da solo. Ehi Marco, non ti sento, sei Gianni agganciato, ci avete lo stesso segnale, non capisco niente. Vabbè, l'hai visto la foto? L'hai visto il mio com'è? Quello è tutto di serie, la ventola di serie e tutto. Hai visto quanto è grande? Hola, sono rientrato! Eccovi, eccovi. Vabbè, tu che sono staccato, sono facendo una prova. Già andava, già lo trovo il modo, a tutti i dì. Adesso c'è un alimentatore, lo compro nuovo e buonanotte, perché mi sono rotto le palle di questo alimentatore che non va bene. Ehi, ne ho comprato uno, io ti ho detto, della Diamond, che è una bestia, e gli alimentatori vogliono buoni già, vogliono buoni senza risparmio, vabbè, avanti Antonio, dai, poi dopodiché vi lascio e vado a cenare, se ci siete a dopo, altrimenti no, altrimenti niente, dai. Ok, comunque già, io sto usando il 574 con l'MB più 5, la radio com'è, va bene? Sì, sì, va bene. Ok, avanti Anto, riprendi. Che caffa, vivone Amper, papà, funziona che ci gozi, se no, no non vanno bene assolutamente. Passate, sto usando 55 Amper, ti basta? Sì, allora già va bene. Che è partito qualche cosa, sicuramente è andato in perdita qualche cosa e vuole che è sostituito. Bisogna che lo controlli una persona che ci sappia fare con l'alimentatore, e tanto ne ho un altro di riserva di alimentatore, è da 35, ma già va bene lo stesso. Oh già. Oh già. Allora sai questo come sta funzionando? Per essere perfetto. Sta funzionando con 100 ampere a 24 volts. Capito? Questo, il kit suo, io l'ho comprato, chi me l'ha fatto avere, me l'ha dato completo, kit completo con alimentatore da 100 ampere a 24 volts, io sto andando a 24 volts, non sto andando a 12, capito? Vabbè, il mio va a 12, non posso mettere 24 volts, se lo guardi, ma sì, è una cosa diversa, quello va a 12 a 24, lo so, ma questo va solo a 12. Lo so, ma per il miglior funzionamento non ho detto di usarlo a 24. Allora, c'è il suo kit, c'è il suo alimentatore, 100 ampere, 24 volts, ed è una canonata. E la radio, guarda com'è, stabile. Figurati che io non te stavo facendo le prove, è entrato lì ma uno da Ziri. Ma ho detto, beh, se lo lì. E pensavo stavo usando, quando ho detto no, sono a casa, ho detto, sempre il K stai usando, ma ho detto no, questo non è il K, questo è un vecchio Midland 78574 con un MB più 5, ma ho detto, adesso lo sto vendendo che veniva a prenderselo oggi, ah Tinnandi! Ciao via! Vai, non si docca! Tocca. Già vanno bene, dai, se c'è tutto a posto già vanno bene. Quello che mi ha deluso già è il commutatore d'antenna che ho comprato su internet, buttato dentro l'armadio, meno male, me ne ha dato due Gianfranco. se no non potevo commutare da una scrivania all'altra. Come gli ho dato gas è andato in corto. Boh, non funziona più. 40 euro lampadi. Le commutatori non ho mai avuto fiducia a questi commutatori, perché te lo ripeto che ho comprato nuovo il commutatore da Fusaro, vabbè, era anche di quelli, diciamo, un po' da prezzo, nel senso che era dettagli, però come l'ho attaccato mi è andato tutto a fondo scala, è stazionale, toccate del sussissimo e cambiate tutti gli spezzoni e fai questo e fate, però vuoi vedere che c'è l'antenna in corto sopra. Poi l'ultima prova che ho fatto è attaccare l'antenna diretta, siccome nel Galassi c'ho anche il rosso, mentre il rosso è entrato era 1,1 di stazionale, è un cavolo, allora questo qui è il commutatore. Ho riprovato ad attaccare il commutatore, di nuovo fondo scala e ho capito che era quello. Già, ha commutato la ZG, può succedere, sappiamo la ZG, queste cose possono succedere, ma quello che c'ho dentro la maniera della Live, a tre vie, 40 euro più trasporto, da buttare via, non funziona, capito? Quindi, vabbè, dai, non c'è problema, comunque abbiamo rimediato, ne abbiamo preso altre due, c'è la biglia curva. Va bene, dai raga, io vi saluto che è pronta la cena, se ci siete ci aggiorniamo dopo, avanti Antu. E qua, ma magari sono pure più buono, è pure più buono che ci sta dando, capa, non so che marca siano, ma sicuramente sono buone. Sono della Daiwa lo stesso, ma sono i modelli quelli vecchi, capito? Quelli vecchi, belli massicci, in ferro pieno. Quello che ho comprato invece è in lamierino e si è giusto tutto. Dai, vado a cenare, ci sentiamo dopo. Ciao ciao. Ciao. E di burro, ma dettagli. Così, a risparmio, caso da risparmio. Per carità. Ok già. Ma poi non è nemmeno vero, perché io c'ho degli strumenti della ZG che vanno bene, c'è gli Oanni, tipo Rosso, Metro, Flat, Metro, eccetera, eccetera, non mi hanno mai dato problemi. Vabbè, già c'è anche roba buona, tipo quello che sto usando adesso funziona abbastanza bene, gli dai molti ampere e funziona alla grande. Capa, avanti, pum pum! Vabbè, buonasera a tutti, sono di Tatovì, ho appena cenato la verità. Ehi, ehi, appunto, ma come hai mangiato? Mangiato, vabbè, se ti dico quello che ho mangiato, voglio andare a cazzo, te ne fuggi dal bagno. Tonno con fagioli. E le cipolle non ce le hai messe? Se non sarei matto, no, così cazzo non ho registrato un accidente. No, no, ho preso una pena di verdura, l'iceberg e mi sono messo a quello. Comunque saluto da Claudio che stava facendo quelle tiri e tutto. Ho messo l'iceberg, sono i fagioli e ho cenato. Io faccio bianchi di Spagna, fagioli bianchi di Spagna, cipolle e tonno. E poi li metto un bel po' di aceto, perché a voi vi piace l'aceto, il sapore. Già sono poco buoni. A voi il rudrudi anda forte. Ah, ah. Voglia. Sì, vabbè, quello poco male. Comunque alimentatore ne ho un altro, adesso lo provo, vedete se va bene. Ma non lo provo, se lo provo domani, se abile tutto. Ma che alimentatore c'hai? Un Proxel Joe da 55 ampere, ti manca. Quanto? 55 ampere, l'altro che c'ho è 35. E invece questo qua è 55 ampere. 55 va bene per qualcosa che hai tu, per quel giocattolino. Ma sta difettando, ho fatto tutto. Studien, dice. Ti sono meglio visto dei cinesi, cazzo che dice. Infatti, ma i cinesi non ne ho trovato la 50 ampere, se no non l'avrei preso. Dice per te, io da Tamarino. Vabbè. Dove l'hai preso tu lì? Dai cinesi, gli ho dato 30 euro da Marino, quanto ho pagato io? L'hai preso dai cinesi e allora dice che bisogna fare delle modifiche, delle cose, Non devi fare niente. Non manco toccarlo la verità. Io l'ho pigliato dai cinesi, 50 ampere è arrivato a Marino, nuovo scatolato addirittura. Me l'ha chiesto, glielo ho dato. Quanto ho pagato io, l'ho dato a lui. Né di più né di meno. Ascolta un pochettino, ma dove l'hai preso? ma che ci dici del prezzo? Quella a fianco a Cosco, Città Mercato. Come si chiama? Muraglia. Io sono andato, l'ho trovato il massimo da 35, non è un 95. Non ce n'è. Esatto. Io comunque l'avevo trovato. Allora, sono l'unico bicchiere che l'ho trovato. Per quel pezzo lì, 30 euro, 50 ampere. So che è marito, ma se lì il telefono io lì. Anch'io ero andato a Pomponio a controllare, più di 30 non ce n'erano. Se lo vuoi a 50, c'è quello che ha preso Luca Manicomio su eBay e lo paghi quanto i cinesi. Spedito, compresa la spedizione, conta 21-22 euro. 50 ampere, però. Vai già. Gianni, 25 euro spedito, 50 ampere, comprato in continente, ok? E non è uguale a quello dei cinesi, Marco, fai da bravo. Molto più grosso l'ammirino, molto fatto diversamente, c'è l'interruttore, capito? 25 euro, io l'ho trovato e l'ho comprato. E lo uso esclusivamente solo per alimentare il B300P e basta. Quello di Luca, quello che è Luca Manicomio. Sì, è la stessa cosa. Gli hanno aumentato gli amper dentro, più capace e tutto, ma siamo sempre lì. Sono alimentatori per strisce LED quelli, così sono definiti, non sono nemmeno da computer. Quelli dal computer sono più quadratelli, già hai capito. No, sono più piccoli, questo è molto più grande, più massiccio, la lamiera è molto più grossa, capito Marco? Vabbè, sarà più grande e ci avrà più roba dentro. Però la forma è quella poi, la forma è quella. Ehi, anch'io lo stavo per prendere, poi ho detto, ma cioè, non mi è piaciuta la morsettiera, poi non ha strumentazione, non c'è un cacchio. Non... Poi ne ho già due di switching, cosa devo fare la collezione? Switching però comprati da negozi di computer, ma di roba di radio, dai. Proxelmi in poche parole. Ehi, va bene, dai, comunque già ci sono gli alimentatori. Io ho preso quello della Diamond, che mi ha fatto avere Gianfranco, ed è una bella bestiolina, 60 ampere. Va bene, dai, vado a pappare che mi stavo spogliando, che ho salito da poco col cane. Ci sentiamo dopo, ragazzi. Ehi, dai, ci sentiamo, Claudio, da dopo. Avanti, Marco, che io sono della tua stessa idea, a me mi piacciono alcuni strumenti, non mi piacciono così. Li dovrei nascondere, se io metto un alimentatore del genere lo devo nascondere perché se non vederlo mi fa schifo. Certo, quanto è feo già, mamma mia, io ce l'ho nascosto sotto la scrivania per alimentare il lineare a parte. Buttassa a me, basta che funzioni. Vabbè, ci abbiamo diversi concetti di stazione noi, a me la stazione mi piace con gli strumenti illuminati, devi vedere se tu la vedi adesso com'è la mia stazione, tutta quanta illuminata, con gli strumenti, deve anche lui che vuole la sua parte di Aghisho. Tanto ha ragione Gianni, tu con sé ho fatto l'impianto luci o con i faretti proprio puntati sopra le radio, però io ho la stanza, Gianni no, quindi il suo praticamente shack lì ad armadio a pannello e deve essere illuminato, se no cosa vedi? Tutto lo bugio il tazzo, Anto, è così, dai. Ciao raga, a più tardi se coincide, se no a domani, ciao, vai Marco lì. Vai, buon gusto d'albero di Natale. E abbuta buono il albero di Natale. Avanti Marco. Deia, già l'ho mandato a Gianni se gli interessa. Comunque, come alimentatore di scorta, per il prezzo che ha è da comprare e da tenere, senz'altro. Può sempre tornare utile, capito, un alimentatore del genere. Basta predisporre già la spina per attaccarlo alla corrente e gli fai un piccolo spezzone con le banane, se proprio non vuoi bucare e fargli la, come ha fatto Luca, l'ha fatto là. I terminali per le banane del baracchino, capito? Eia. Va bene, chi c'è rimasto? Io adesso vado via. Ciao Claudio, di nuovo. Devo farmi sto benedetto caffè ancora. Gianni, riprendi, Corix per me, bianco per me. Guarda che ci ho tornato il link se ti interessa. Poi è quello di Luca, identico, lui l'ha comprato lì. Ehi, adesso vado a vederlo, vai. Poi al limite se c'è da fare qualche modifica lo dico a Luca che l'ha già fatta, quindi la faccio fare. Faceva le orgette all'aperto, Antone, sì, Pomponi o me, Falcone. Perché mi è venuto automatico, come mi è venuta la parola oggi in mente, mi è venuta anche Pomponi appresso, anziché dire Paoletto. Pomponio, chi sei? Sono qua, mi senti, sì. Poi ti sentiamo. Come sto uscendo? Dammi un segnale. Sì, 925 Radio 5, a voglia. Quindi 16 euro alla fine, più 6. Caspita, 22 euro, 22, non 25, 22 euro. Poi vabbè, Luca ci ha aggiunto, mi pare, la spia di funzionamento, credo un interruttore. E poi le uscite per inserire le barane del baracchino, oh Gianni. Allora si può fare la modifica, non c'è problema. Sì, è bellino, oddio, da nascondere, lo metto sotto qua, ci abitate qua, Druveglia. Ma lo sai cosa è? Che non si vede che c'è l'alimentatore. A voi voi ci rimette a fare la stazione, io già giù butto sotto, mi affitti nulla. A me è importante che mi porti bene il lineare, poi. No, non mi interessa il resto. E vabbè, noi la pensiamo lo su anche. Sì, vabbè, io sai che a me sto ancora me ne affutto. Importante che mi porti bene la marabà, poi. E prima o poi vorrei che ce ne metto uno più grosso e faccio schiatta. Ma Antonio, tu ne fai i VX in primavera e estate, tipo in banda laterale, roba del genere? Prima li facevo. Ma tu sei senza... tu non ce l'hai un apparecchio con la SSB ancora, no? Da quando hai cambiato casa, no? No, me lo devo prendere, me lo devo, ma mi prendo un bel apparecchio, è vero. Raga mi va, raga mi buonia un po' che le cose a posto, no? Che... poi già lo so, già lo sappiamo, io una persona cosa mi devo portare qua. Avessi schirreggia. Il K minimo. È qualcosa di bello. Chiedo a sblatterare il canale e poi vi faccio schiatta. Ah, io splatter non ne prendo nemmeno la Claudio, battimento tanto meno. Basta spostarci di 3-4 canali e non senti più nulla. Ma manco io ho problemi, la verità. Sì, ma non so così ti attacco 200 watt dai noghe, la cosa cambia. Ma tu l'altro giorno che Claudio ha provato quel lineare grosso hai detto che sentivi splatter in tutti i canali, così l'hai detto ieri, quando era? Ieri o l'altro ieri? Lo sentivo un po', ma non è che mi dà tanto. Questo qua è più selettivo dell'altro, l'altro un po' di più, però questo proprio è più selettivo. Io guarda, quando avevo gli Intech prendevano colpi, i vecchi FM500S, 548, ma colpi mi, battimento più che splatter, proprio battimento, ti tirava giù i segnali. Poi quando ho preso il primo tipo Pluto, mi, insomma basato su EPT3006, finito il battimento, finito il 90%, anzi il 95% del battimento e degli splatter, spariti. Sì, ma anche questo non è bigliaccia di colpi. Quella per appena di più, ma non ti credere. Non ti credere. Sai cos'è? Il battimento, se gli hai, se hai molta potenza anche. Allora sì che non ne comprendi nulla. Sì, ma infatti negli anni 80 era molto più allucinante la cosa, cioè c'avevo gente a 50 metri, senza scherzo, 50 metri misurati, cioè che non si riusciva a parlare uno sull'uno e uno sul 40, non riusciva a parlare né l'uno né l'altro dai colpi che si prendeva. però ormai siamo distanziati, cioè tra te e me noi diciamo vicino, ma sarà un chilometro, almeno un chilometro, se non uno e mezzo pure, in linea d'aria. Dovrei prendere la Google Maps o Google Earth e misurare col righello elettronico lì, misurare la linea, uffa, la distanza, già hai compreso, la distanza vera e propria. Cioè io gente vicina non ne ho, vicina attaccata no. Invece per esempio a Latte Dolce ci sono molte stazioni che sono proprio a 50 metri l'uno dall'altro, 50, 100, tutti concentrati in quella zona lì, capito? E lì è un problema modulare su canali diversi, a meno che non c'è apparecchi da battaglia, tipo quelli professionali, no? Amatoriali. Ma in genere facciamo tutti d'accordo. Prima era peggio che mai. Già se lo ricorda Gianni. O no? E sai cosa era? Che quando uno si davano colpi, allora uno attaccava un lignarone, dopo non ne comprendeva più niente, si afferravane. Guarda, io ti faccio un esempio, io già lo sai dove sono, no? C'era dal grattacielo Corrado, che poi Corrado era il nome non vero, era diciamo nominativo del baracchino, che per parlare con Tore Bigio, che era in piazza Castello, cioè sotto il grattacielo in macchina, usava il lineare d'accento, impedendo a me e a molti altri di sentire negli altri canali, capito? Per parlare con l'amico che era sotto casa sua in macchina, quello vuol dire non avere rispetto per gli altri, però per fortuna adesso si è calmata la situazione, ma negli anni 80 era una guerra vero, Capo. Ragazzi, che se non avevi potuto fare dai, no, che avevamo minimo sotto un tovato, avevamo già mandato pure un cavo, poi voglio vedere care che non mi fate fare dai. Capo, avanti già. Però Anto, che ragionamento è? Cioè se tu non riesci a modulare per gli splatter metti 800 watt, 1000, e quindi cosa hai risolto? Che continui a non ricevere per colpa degli splatter, cioè ti sentono ma non senti nulla, e quindi non hai risolto nulla. Sì, vabbè, che tu avrà fuggito, vero pompo? Allora però, caspita, cioè io l'ho capito quella cosa, ma se uno prende splatter e si limita a mettere kilowatt su kilowatt per splatterare a sua volta, vuol dire che in 30 anni di radio non ha compreso nulla. Già lo so, sto scherzando. Vabbè, ma non è giusto però. Un bel golpe pigliavi tu. Allora, solo da quelli molto vicini, oppure gente tipo al grattacielo che però parlava con lineare d'accento. Capito, parlava sempre con lineare d'accento, per parlare anche con gli amici sotto casa, quelli attaccati, incollati a lui, capito? E poi con certi apparecchi prendevi più splatter e battimento, tipo i molti mode che erano terrificanti, tipo quelli omologati Intec, no? 500S, 548SX, quelli erano allucinanti. È un po' come può essere il 48, Milano 48, l'anno 68, però poi con le PT 3006, vedi il Pluto, vedi il 3009, vedi il Galaxy Saturn, no, che ha quella scheda lì, è la stessa scheda poi di questo, prendevi molto ma molto meno battimento, e proprio c'era un abisso, poi se metti roba professionale ricevi ancora meglio, però non c'è più il problema degli splatter adesso, non credo più, no. Ma la ricezione, io non ce l'ho mai avuto un apparecchio così professionale, la ricezione com'è? Ma di un K per esempio, allora questa è zona rumorosa, io mi lamentavo che il 140 era rumorosetto, e per giunta lo squelch in M non funzionava, serviva solo per l'FM, e quindi devo stare a sentire sta friggitrice, no, tutto il giorno, se lasciavo il canale monitor. E qualcuno ha detto, ma metti l'attenuatore, grazie. Poi però sento solo quelli forti, quelli medio-bassi spariscono. E quindi alla fine io non... mi sono rotto le balle, l'ho dato. Qua se non è cosa già non fa molto casino. Se... No, ma se tu prendi un modello migliore che abbia... almeno lo, poi lo squelch non so se lo metti, magari tu non ne metti, io ce l'ho sempre lo squelch, perché io francamente di sentire motorini con quelle candele senza la disturbi, sai, quelle che non hanno la resistenza, no, quelle candele che senti una specie di zin sulla mi quando passa, è fastidioso quando lasci tutto il giorno l'apparecchio acceso, quindi metto squelch minimo e boh, va bene. Io me ne sto andando, dai. Pomponio, se ci sei, riprendi, o Gianni, con il ritiro definitivo per me, dai, si sta facendo tardi, devo organizzarmi una cosa qua. Ciao a tutti, riprendi Pomponio, se c'è. Vabbè, bombolo, dai, vai tu direttamente. Poi saluta quando rientrano, ok? Ciao, ciao. Ti volevo chiedere una cosa, il palazzo rosa è il tuo? Sì, rosa sporco, era rosa, va, è rosa pinghiloso. Sì, già lo so, già. Dov'è? Sì, guarda, se vai ai Casonetti, qua vicino si vede l'antenna, tre radiali. Se vai in quella aiuola che c'è vicino ai bar. Sì, già la giuvizia, non ti preoccupare che già la giuvizia. Lo so perfettamente dov'è. Certo, non è molto alta, io ho poco palo, quindi non volevo tirantare, ho messo un paletto da 3 metri e mezzo, dai, 3,60, quant'è? Era 4 metri in teoria, poi sono andato a misurarlo tutto allungato ed era 3,70, hanno rubato anche in altezza, l'ho fatto a sì, tipo 3 metri e mezzo, dai. E da terra è alto un metro, si solleva di un metro, quindi l'antenna dal pavimento è alta circa 4 metri, dai, più o meno. Già andava io, no, va bene così, ce ne è avanza. Sì, ma infatti ho detto come va, l'antenna metto quella, il cavo metto quello, come va, io non... poi non sono anche fissato con la potenza, a meno che non ci sia propagazione, magari in banda laterale un centinaio li metti, in primavera e estate, quando ce n'è propagazione, perché a 6 poca venne. Va bene, ok, ciao Anto, devo scappare, dai, sentiamo, saluto a tutti quando entrano, se entrano, ciao. Ciao, ci sentiamo. Buongiorno. Io stavo provando l'altro alimentatore, vabbè, vi dice di andare. Ah, io già sono qua, già, prova. Lasciami finire di piazzarlo. Adesso vieno io, non ti preoccupare. Antonio, come sto uscendo adesso? Prova, già. Guarda bene, se la radio è buona, oppure se è satura. Sono dello zero, satura. Guarda adesso. Prova, fa un passaggio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Io di già va meglio, va bene così. Calma, va bene? L'alimentatore. L'alimentatore che mi sta dando problemi. Ora. Fanno così, va bene già. Poco ingresso e lui pompa, va. No, l'altro era l'alimentatore che si bussava e non andava, dai. C'è poco da fare, non andava bene con l'alimentatore, devo far vedere a chi di dovere, perché l'alimentatore che ha dei bisatti di chi si vende i vanni, cioè di chi sia trasformatore. Via. Papà. No, mi sono agganciato un cavo di cosa per montare un muro. Stavo rispondendo a Sara. Magari i switch che vanno un po' meglio, perché cazzo ci vuole un po' di spinta per qualcosa. Ciao Rantu, questo qui è da 55 ampere. Ah, io ci vado alla grande. Questo è un switching, questo qui da me vabbè, non è manco switching, è tipo questo un switching. E cosa va? Senza alimentatore. L'alimentatore, questo qua è... Ah no, è un switching. TD14S30, 30 ampere. 13,8 la potenza mi assorbe, però amperaggio non lo so.